10 Ora in onda. Riccardo, ma che stai facendo? Lascia fare. Tanto Leonora non è bravo. Va ora. Tanto nessuno lo capisce. Va ora in onda. No, ma tra l'altro lo fai anche bene. Hai visto? Tanto quello parla così. Va ora in onda, mi sta stre... Riccardo! Uè! Dimmi. Sei confuso un po'. No, e tu non c'eri, noi abbiamo risolto così. Leonora, questa presentazione che fai tu fa schifo. Cioè, guarda, sì. Guarda, facciamo, vediamo chi lo fa meglio. Va ora in onda. Vai tu. Va ora in onda. Più o meno. Io direi una cosa. Fatelo tutte e due insieme. Vai. In sincro. Pronto? Uno. Come nelli per due. Caso. Tre. Va ora in onda. Mi sta stretto lo stivale. E per non ridere. Dai, su. Di. Va ora in onda. Uno. Due. Tre. Non si può fare più, basta. Adesso la fa Alessio. Fallo tu. Va ora in onda. continua, la fallo tu a questo punto. No, facciamola in due, Ah, vabbè. Facciamola tutti e tre. Dai. Uno, due, tre. Va ora in onda, mi sta stretto lo stivale. Di Cremona, Strazzullo, Parisi. Dirige nessuno. No, perché l'abbiamo già detto. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Radio 2010, Riccardo Cremona. Io protesto. Questa volta non dirò il mio nome né contribuirò allo sviluppo di questa puntata. Perché? Così. Ce l'ho con te oggi. Perché, scusami? Ciao da Alessio Strazzullo. Ma vaffanculo. Era solo uno scherzo. Come sei simpatica. È bello iniziare la puntata con un vaffanculo così. E magari cominci con queste battute squalidissime. Siamo tesi, ragazzi. Perché stasera è un grande giorno. Oggi è un grande giorno. E stasera ci sarà uno di quei momenti. Sì, una grande serata. E Magico Napoli stasera sfida. Non diciamo niente che porta a sfortuna. Non ho detto niente. Siamo zitti. Allora, informazione. Sì, però l'informazione in questi casi. Vabbè, sfida una squadra. Nuoce gravemente poi. Sì, ho capito. Toccati. Mi toccherò. Ci tocchiamo tutti. Tanto la radio voi non potete vedere. Napoli-Juventus stasera. Ti sei toccato? Sì, abbastanza. Ti è anche un po' piaciuto? Vuoi del tempo per te? Mi piace toccare altre cose. Pensavo di altri. No, altre cose. No, scusami, perdonami, mi ero confuso. Ho visto una faccia però abbastanza gaudente. Sì. Perché ti metti... Adesso hai assunto una posizione a tre piedi, non si capisce per quale... I nostri mezzi ancora poveri non ci permettono di essere perfetti. Allora, fammelo dire. Allora, descrivo un attimo la situazione in studio. Siamo appoggiati su un ferro, su un asse da stiro. Sì, perché siamo dei grandissimi proletari. Sì, vabbè, siamo su un asse da stiro. Cioè, è terribile questa situazione. Però abbiamo due Mac, sia da un lato che dall'altro. Quindi siamo sia proletari, vecchio stile, che anche moderni. Ma tre Mac qua abbiamo proprio... Siamo proprio... Mamma mia, che tecnologia. Allora, dopo questo inizio trascinato, diciamo così, partiamo subito con le notizie. Sì. Partiamo subito con le notizie. Notizia che adesso io protesto, perché per me è la notizia più inutile del mondo. Ok. Ah, scusatemi, avviso la regia, ma noi ci dimentichiamo il pezzo portante della nostra... Pezzo portante, è il pezzo che faccio poi così tanto. È il pezzo portante, smettila. Poco lo di Mena, lo sai com'è fatto? Vabbè, salutiamo il regia, il mitico Corrado Parisi. Ciao Corrado, ti amiamo. Buona nuca! Buona nuca! Buona... Annuca, ebreo. Ah, ok, ok. Buona... Manco l'hai sentito? No, non buona ho, nu... ho tolto buona le nuca cuffie, a tutti. Sapendo che urla, tolgo le cuffie perché sennò mi stona. E non hai sentito un buona nuca a tutti, signori. Anche il silenzio per il buona nuca ci stava buona bene. Buona nuca, è giusto. Allora, la notizia, io non volevo dirla perché sicuramente per la serie... che potevamo farne a meno. La notizia più brutta della faccia della terra. Alessio Strazzullo, il mio capo, ha deciso di farla dire a me. No, io poi dopo motiverò. Tu aiutami, perché qua sono poche, certo, le cose. Allora, figurati. Mi hai costretto. Già non mi paghi, poi mi costringi psicologicamente. Ho quegli occhioni da daino, non so dirti di no. In realtà ho degli occhi a palla, ma lo sai, una volta per un periodo sono uscito con una ragazza. Sì. Che durante un appuntamento mi guarda e mi fa: certo che tesoro, hai veramente degli occhi a palla. L'applauso ci sta benissimo. Dimmi che ti sei alzato e te ne sei andato, ma non tanto per gli occhi a palla, ma la per frase il tesoro. Certo che tesoro, cioè no, terribile. No, manco nonna mia dice tesoro. Terribile, tesoro è una delle più brutte parole che io, cioè, non lo sopporto proprio. A me piace, no, cioè, no, non, a me no. Non mi dispiace. No, a me no. Allora, la notizia è Milano, bosco sui grattacieli. Tu dirai, sì, che cosa significa? No, tu lo sai, io la notizia, lo so. Mi ha anche costretta, vabbè, era una retorica, che palle che sei. E comunque, praticamente a Milano nascerà il primo grattacielo verticale, due torri ricoperte di alberi, sì, 120 alberi. Per ma me tu questa... che cazzo ce ne frega? Perché siamo in radio, non possiamo far vedere l'immagine, ma l'immagine è apocalittica. Cioè, ma perché esce? Allora, sono due grattacieli, due torri, come le torri gemelle. Sì. E non si capisce se sono fatte di alberi o di cemento. Sembra una di quelle situazioni per cui dopo un disastro nucleare, sì, la natura si è ripresa i propri spazi sulla Terra. Ah, come quei film apocalittici. Esatto. E guarda, è spettacolare, la foto è bellissima. Secondo me sono brobbiosi, sono brutti, brutti. Dove sono le radici? Però se questo può servire effettivamente a riportare un po' di verde nelle nostre città. Ma non è, no, le verde in verticale non serve a niente. Immagina se tutte le case fossero così. Mamma tutti mia, sai che problemi a casa. Cioè le radici che vanno in giro per il palazzo. Con le scimmie che passano da un palazzo all'altro. Formiche, ma la resina. No, le formiche. Scusa, sono alberi o no? Sono veri o no? La resina, se intrappola le zanzare, eh? Poi successivamente può riuscire a clonare addirittura i dinosauri. Quindi... hai avuto un'infanzia molto felice. Io dico di sì alla resina. Sì, perché e tu sì anche ai tu sei convinto verticali. Che quella perché mega cretinata di Jurassic Park si possa realmente fare. Allora, ho toccato molto. Spielberg sarà anche un visionario, ma non è un pazzo. No. Quindi se lui ha ipotizzato questa cosa, sono convinto che fra una decina d'anni tutti quanti diranno: ah, Spielberg già l'aveva ricordiamo fatto. Ricordiamo che Spielberg ha fatto dei film visionari che non accadranno, tipo E.T. Non è che vabbè, tu ma domani... questo è quello che pensi tu. Tu non sei sicuro. Quindi anche lo squalo, tu credi che l'unico, esista l'unico squalo film, predatore l'unico film modo. Veramente visionario è Schindler's List. L'unico reale, mi ha anche sputato addosso il perdona. Schindler's. Perdonami. Vabbè, comunque, è una notizia inutile questa, diciamo la verità. Vabbè. Tu costretti a dirmi, ma non ce ne frega niente. Ci vorrebbe uno di quei romani che fa... Dimmi la notizia, dimmi la notizia. Ah, sì, dimmi. A Milano, il bosco verticale alto più di 100 metri. E sti cazzi? Okay, sarebbe benissimo, ci starebbe benissimo. In un certo senso sì. Vabbè, vabbè andiamo, andiamo avanti. Ah, questa notizia è la bruttissima. Dammi la notizia più spumeggiata. La notizia più importante della settimana, secondo me. Si è allargata. Caso Balotelli. Ah, allora, Balotelli è il giocatore famosissimo dell'Inter. Letterario. Sì. giocatore dell'Inter, nato nel 1990. Bravo, giovanissimo, nero come la notte, gigantesco, sì, un'enormità, 1,90 m di uomo. Un giocatore fortissimo. Sì, molto cioè, bravo. Io le cose. Genio e fantasia. Sì, mentre Eleonora, una delle nostre assistenti, ha un attacco, non so di che cosa, probabilmente di. È del 90, è del 90! È enorme! Potresti presentarlo a tua sorella, per esempio. Che tra l'altro è identica, fattolo dire, è impressionante. Ho visto le foto che ha messo giù, ma sei tale e quale? Comunque, dimmi, Balotelli. Dove sta... Balotelli. Balotelli è stato avvicinato da Valerio Staffelli. Striscia notizia. Striscia notizia in un locale. Uh-huh. No, in un locale, in un bar. Stava lì prendendo il caffè. Sì, caffè. E che cosa è successo? Quello da gin e tonic. Che cosa è successo? Gli hanno portato una maglia del Milan dicendo: Balotelli, quando il Milan è arrivato a meno uno dall'Inter, tu saresti entrato nello spogliatoio. Dicendo siamo a meno uno, siamo a meno uno. Perché si ipotizza che lui che Balotelli sia milanista, sia cresciuto con il pallino del Milan. Tra l'altro c'è un odio palese in tutta la città tra Milan e Inter, uno dei derby più sì, importanti, quindi... il derby della Madunina. E niente, e lui diciamo non è che ha detto proprio di no. Ha preso la maglia del Milan che gli avevano preparato col numero 45 con dietro scritto Balotelli. Aia. Ha detto non la posso mettere, però certo, questa la tengo. Perché ecco, se la tiene? Boh. Anche perché sa, diciamolo che Mourinho non è che sia l'uomo più tranquillo di no, questo e mondo. Tra l'altro, quando Valerio Staffelli dice: Mourinho non ti ha fatto giocare contro il Chelsea, poi ha vinto Mourinho. Lui in uno scatto di impetuoso gli ha detto: chi è che ha vinto? Valerio Staffelli ha ripetuto Mourinho. Lui ha fatto: ma che ha vinto la squadra. Ma quindi addirittura sta sfidando uno degli uomini più cattivi. Arriviamo all'ultima dichiarazione. Chi ha dichiarato? Il genio, l'Accademia della Musica del Calcio Italiano. Innanzitutto Moratti ha detto: sono un po' dispiaciuto, perché comunque sa, Moratti mette una quantità di soldi per l'Inter, per questo club che comunque vince, sì, ma vince da poco comunque, non è che... Eh beh sì, da poco, sì, non è, diciamo che l'Inter è anni che non vinceva. Saranno 5-6 anni che adesso fa dei sborroni sul... Vabbè, faglielo fa però, io ci sto. Lui si è dispiaciuto un po'. Che cosa ha detto Berlusconi? Berlusconi ha detto Balotelli alla faccia da Milan. Ma che vuol dire? Com'è la faccia da Milan? Fammi la faccia da Milan. Fammi la faccia da Milan. Siamo in radio, Riccardo. Hai ragione. Però stai facendo una bella faccia da Milan. Però ti faccio vedere la faccia di Balotelli. Ma non è una faccia da Milan. È una faccia, sì. Cioè, non mi sembra. Secondo me è un po' sì. Ma io se mi incontrassi in mezzo alla strada un po' preoccupato lo sarei. Ma è un... è gigantesco. È del 90. Sì. Vabbè. Diciamo che comunque... Ah, dicono che forse se ne andrà dall'Inter, leggo. Sì, forse si parla di Arsenal. Eh sì, per com'è la frattura è fatta. Diciamo la verità, Mourinho è uno che non secondo le manda me via. Lo terranno tutta la vita. Pure secondo me, perché darlo a altri mi sembra una gran stupidata. Comunque, secondo me questa è la notizia più importante della settimana, perché coinvolge il costume, coinvolge lo sport, quegli scontri epici. Ma stiamo parlando di Super Mario Balotelli, il derby della Madonnina, Tegelsu, sai, quelle cose del genere. Sì. E niente, stiamo parlando di nulla. Però la prossima notizia... Ah, questa è bella, questa la dico io. Eccola. La prossima eccola notizia qua. È... Questa è bella. Allora, il genio della Vanblembana. Sì. L'uomo più sobrio del mondo, perché tu sei d'accordo che sia un uomo sobrio e elegante. Ma berrà 2-3 litri di vino al giorno, guardare la foto. Ma che cosa? A caffè. Una foto terribile. Ma che cazzo sei, Sylvester Stallone? Allora, stiamo parlando di Calderoli. Ah, uno dei migliori proprio in Italia, proprio l'uomo più sobrio e elegante. Noi la invitiamo alla nostra radio. Ancora sempre, no, lui sempre no. Che riesca ad entrare in questa casa senza essere attaccato con delle spade, probabilmente, lui da no. Tutto il popolo napoletano. Lui no, lui no. Allora, Calderoli. Che ha fatto, dato questa foto incredibile, dopo la raccontiamo. Che è successo? Per premiare e celebrare il decreto salvaleggi, sì, che è un decreto che fa fuori un sacco di leggi, circa 375.000, sì, che ha fatto lui con sobrietà, perché stiamo sempre parlando di sobrietà, si è messo un'ascia dietro la schiena, ha preso un lanciafiamme, sempre per essere sobrio, è andato lì e ha bruciato queste ipotetiche 375.000 leggi, bruciando un tumulo di carte. Ora c'è questa foto e io voglio raccontarvela. Cercherò di essere manzoniano nella descrizione. Allora vediamo in primo piano c'è un Calderoli con un giubbino di jeans che, diciamo, fa la sua... Un giubbino di pelle. Di pelle, scusami, che fa la sua porca figura. Guarda che bell'uomo, Ma sembra che gli manchi un dente. Ma forse gli manca, sicuramente. Gli ha rotto un napoletano in giro per l'Italia, sicuramente. Poi questi capelli. Poi tiene una bellissima cravatta verde. Verde, che... ma verde smeraldo. Allora, io devo dire una cosa. A voi della Padania, la cravatta verde fa schifo. No, ma proprio siete... Fa schifo. Siete indegni. E che succede? Che si... Lui dietro, nello sfondo, c'è una nube. Non la nube, c'è una pila delle fiamme. Delle fiamme, ma tipo 2-3 metri di fiamme. Ma dai, hard proprio. Bravo, dai, sembra Bruce Willis. Guarda, è probabile. È un film di Steven Seagal. È probabile, sì, che io decida di mettere questa foto sul blog una volta pubblicata la puntata. Perché secondo me è troppo bella. Calderoli. Ma poi sta con il pollice alzato, come a dire, ce l'ho fatta. Napoletano, inutile che fuggi. Non scappare, sarà impossibile fuggire. Nessuno può scappare da Calderoli. È figa. Al cinema, Man of Fire, Calderoli. Poi tra l'altro dopo possiamo chiedere anche che cosa ne pensa Ascanio Mummo tutto ciò. Secondo me lo stima Calderoli. Secondo me no. Secondo me no. Perché comunque... Dici tu, come si può stimare Calderoli? Ma neanche Calderoli stima se stesso, evidentemente. Anche per come si veste. Secondo me nasconde qualcosa, perché non è possibile che sia ancora ai vertici di un partito come la Lega, di un partito serio come la Lega. Serissimo, come no. Ce l'abbiamo duro! Cioè, è serio. Un partito serio come la Lega. Facciamo finita, c'è anche il figlio di Bossi, io vorrei ricordare nella Lega. Il figlio di Bossi mi sa che è già candidato alle prossime elezioni regionali, non sì, so sì. Bene per cosa non seguo la vita del figlio di Bossi, meno male, anche perché ce ne sono un paio, diciamo, che tutti quanti si vogliono candidare, sai, i delfini, le trote, cose del genere, come si dice, no? Il delfino, uno che segue la carriera del padre. Comunque, diciamo che quella cosa era bellissima, io voglio che tu la posti perché è eccezionale. Calderoli, Man of Fire, vedremo che cosa si può fare. Per favore, fallo. Prossima Dai, notizia. Prossima notizia. La Federico II. Io studio là. E pure io. Oggi ho fatto un esame 28, grazie a tutti. Eleonora studi là? No. Eleonora è orientale. Attenzione. Fabio, tu? Ah, Fabio. Fabio studia là, anche Federiciano. Bravo. Qui bravo. C'è gente che studia nei più grandi atenei d'Italia. Proprio nei più grandi atenei d'Italia. Che dico, del mondo. Sì, oggi mi hanno interrogato due assistenti che sembravano Costantino Vitaliano e Daniele Il Terrante. Vabbè, ma la giurisprudenza siete un po' così. Erano voi. Bellissimi. Siete un po' così. E lui, fammelo dire, perché l'ho ammettilo, pensato tutto il giorno. Ammettilo che siete un po' leccatini. Dai. Ma, un po' sì. Vabbè, ma la impostazione. Poco. Ma fammelo dire, lui teneva una delle cose più brutte e cafone che ho mai visto. Il fazzoletto al collo. Teneva le iniziali, nome e cognome sulla camicia. Tatuate in faccia. Ma sai sulla camicia dove? Sul polizzino. Ah, è bruttissimo. Questo. Io quando mi sono seduto l'ho visto lì. Ciao Costantino, ciao Daniele, mi chiamo Maria e voglio corteggiarvi. Con così tanti avvocati, possibile che nessuno riesca a metterlo in galera. A chi? No, non si può dire, siamo in campagna elettorale. Ah, dici tu. Lui. Lui? Beh. O lei? Troppi avvocati. Quanti avvocati ci sono ma, a Napoli ogni via, anno? Quando vado fuori università. È impossibile, non è possibile. Ma fate un esercito degli avvocati. Tra l'altro voglio dire che secondo me i parcheggiatori fuori università sono quasi più ricchi di Napoli. Ma... un euro la botta. Sicuramente più ricchi di noi. Sicuramente. Comunque mi scroccano sempre le sigarette. Federico II, uno dei più importanti atenei del mondo. Del mondo. Del mondo. Del mondo. Non per niente fatto? L'ho scelto. Sbarca finalmente su iTunes. Non vedevo l'ora. In che modo? Allora, noi adesso qui scherziamo e ridiamo. Ne parleranno sicuramente meglio i colleghi di The Bug. Sì. Nella prossima puntata al 100%. Sicuramente. No, io che cosa mi sento di dire? Che è chiaro, è uno strumento utilissimo, quindi poter riascoltare lezioni, contributi. Però certo, se mettessero anche la carta igienica nei cessi, mamma mia, magari sarebbe meglio. Mi hai fatto venire una cosa in mente assurda. Sai che è successo? Sono andato, io quando faccio l'esame c'ho un po' di ansia. Sì. E la scarico andando in bagno. Che schifo. A urinare, urinare. Ah, ok. A urinare, no, a fare due gocce. Ok. A cambiare l'acqua al pipistrello. Dai, basta. A cambiare le olive. Ok. Allora che succede? Vado in bagno e puntualmente succede questo. Esco, mi lavo le mani perché vanno sempre lavate le mani. Sì. E puntualmente ci sono quattro di quei cosi che tu premi e fanno qua c'è l'aria calda. E su quattro non ne funzionava neanche uno. Ma è chiaro. Però io poi devo tornare a casa con le mani bagnate e sentirmi su iTunes la lezione. È chiaro, allora. Però ho dovuto fare questo gesto che parate non potete vedere, che mi sono asciugato sul pantalone. E sei andato a fare l'esame e sembra che ti fossi pisciato addosso. Sì, meglio quello che dai una mano unta e bagnata. Sicuramente. Ok, allora. Io sono contentissimo che la mia facoltà, anzi il mio ateneo più che la mia facoltà, anche perché la mia facoltà poi è molto arretrata anche su questo. Sì. Diciamo che sono contentissimo anche perché mi piacciono le nuove tecnologie, mi piace poter ascoltare una lezione su internet, però mancano le porte. Sì, infatti. Le porte non si chiudono. Comunque se andate nei bagni della Federico II sono in una condizione. Ostaggio dello Stato. Salutiamo il nostro DJ che è stato acutissimo. Ostaggio dello Stato. Poi metti in mano a professori che non sanno neanche accendere un microfono delle tecnologie decenti. Se ne vanno due ore prima. Sempre quel solito. Funziona? Si sente? Funziona? Prova. Si sente? Lì nelle ultime prova. Vabbè, facciamo senza microfono. Vabbè, facciamo senza microfono. E tu non senti niente. Non sei. Così. Sentite? No, professore, voce. Non posso urlare. Professore, voce. Si sente? Tra l'altro, Fabio Milano, uno dei conduttori di The Bug, ci sta segnalando che il portale si chiama Federica. Sì, che novità. Tra l'altro, sì. Io voglio dire uno scoop. Io ho fatto un progetto per Federica. Ah. Una mia professoressa, molto brava, la Domenico, salutiamola. La donna lupo dell'SS, denominata, femminista, sì. Teneva, non si depilava tutta la cera, teneva dei peli lunghissimi. Che è successo? Federica. La professoressa Giovanna De Minico, la donna lupo dell'SS. Hai fatto nome e cognome? Sì. Te ne rendi conto? Sì, vabbè. Va bene. Che io stimo, bravissima. Ok. Ho fatto una delle migliori. Anche oggi ho consigliato a un mio amico okay. di fare il suo corso, perché è eccezionale. Che ha fatto? Ci ha fatto fare un progetto che andava sui Federica. Abbiamo fatto un congresso praticamente, una discussione, sì. un simposio sì. su un argomento. Una di quelle cose che attille che non servono a niente. Stavamo là tutti belli a parlare delle autorità indipendenti in Italia. Se volete andare, è molto interessante. Non dico le stesse stronzate che dico qui, però se volete. Io comunque un appello, va bene le Tunes e va bene grazie alla Federico II. Ho un altro appello, mi è arrivata la carta nei cessi, o almeno comunque se non la carta per farmi asciugare. Sì. C'è qualcosa devi asciugare. Non dico che ci deve stare il signore con i ristoranti di lusso che mi passa l'asciugamano e poi gli lascio gli spicci. Certo. Ma anche, che ne so, anche i fazzoletti tempo, qualsiasi cosa. Ma anche un aspirapolvere che possiamo utilizzare per asciugarci le mani al contrario. Diciamo. Che dici? No, nel senso che aspira invece di cacciare, però un po' penso quei cosi che stanno sul muro, chiaro, basta, cioè, basterebbe, cioè, aggiustare quelli, perché devi fare un MacGyver, ma anche delle asciugamani. Quasi, allora, comunque se gli incassino i problemi, allora non c'è una porta, infatti, che si chiude. Sì, ma infatti perché la Federico, sono d'accordo, l'università a porte aperte, il diritto allo studio a tutti, ma non c'è una porta che si chiude. No. E le scale mobili, le porte sono aperte a tutti perché non si chiudono. Tra l'altro, perché... voglio dire una cosa, la mia università, io sto a Porta Rimassa, sì, sembra un centro commerciale perché sono le scale mobili al centro. Sì. È un centro commerciale classico, prima la standa, tipo. A giurisprudenza qualche volta ci sono stato, effettivamente sembra un centro commerciale. Sì, sembra bassa categoria. Standa o la UPIM. La UPIM, sì. E che succede? Che non funziona neanche una di quelle scale mobili. La cosa più bella è che le scale mobili, una volta che non funzionano, sono una cosa più difficile da salire. Tu concorderai con me? Sì. E pensa, quando devo andare al dipartimento al nono piano, scendo giù, che nono piano, via Marina. Sì, ok. È impossibile, non funziona. Le scale mobili, sì, sono difficilissime, sì, no, da salire. Tra l'altro, ogni volta che entri là dentro, speri di arrivare a destinazione. Sì, perché sì, quelle ascensori sono, no, sono, terribile, sono terribili. No, no, è terribile. Infatti, boh, tra l'altro, non so se sai, c'è stato un problema sulla tassa della Come prima, no, sono arrivata una tassa. Mamma mia, un salasso. L'anno prossimo mi iscrivo a Berkeley pagando questi salasso soldi. Cioè, ma che scherziamo? Io vado a rubare la tua radio l'anno prossimo. Ma... cioè, ho preso il bollettino. Ah, è arrivata la seconda tassa, per il secondo. Ho aperto, lo spizzate come si fa a poker. Sai quei fatti, però, che spizzi? Però probabilmente questi soldi, questo aumento, è motivato dal fatto che domani mattina puoi sentirti il podcast. Ah. E non la carta igienica, il podcast. Allora anche noi potremmo farci pagare per il podcast che mettiamo. Questo non lo so, non lo so. Un po' ti è piaciuta questa idea. Però mi è piaciuta un po'. Allora, però vorrei fare due domande, non la facciamo mai parlare. Se la facciamo in un attimo. Qua lei è iscritta all'orientale, chiediamo un po' la situazione. Venga, venga, venga qua. Allora Rinucci, venga un attimo da me. Venga, il suo venga. Momento. Il si suo accomoda momento. di qua, si accomodi, Prego. Salve. Salve. Come sta? Tutto a posto. Ah, che bella signorina. Lei è Eleonora, Ma che bella signorina. Quanto è carino. La voce. Lei è la voce. Allora, a parte che lei ha uno smalto di un colore improponibile, voglio dire, un attacco epilettico. Meno male che siamo alla radio e non si vede. Mi piace molto questo colore, però. Perché tu sei omosessuale, latente, e ti piace questo colore. Allora, ancora una volta, è una spiccata sensibilità femminile. Bravo. Allora, esatto. Lei studia all'orientale. Esatto. Che ho fatto cosa? Il trasferimento quest'anno, beni archeologici orientali. Bene, ma da che cosa? Dal trasferimento alla Federico II. Alla Federico II. Mi sono trasferito. Ma lei era dissidente. Sì, perché. Ma non si faccia sentire dal come si chiama? Scudiero, il No, scudiere della mia facoltà, scusate, il rettore. Ma non si faccia sentire, lei è un dissidente, sai che c'è gente che mi ha sparata per questo motivo. Quelle sono due fazioni importantissime. Sì, soprattutto dopo non avevano niente per tamponarti, perché manca la carta igienica, quindi non vero. Possono è toglierti il sangue dalla faccia. E come mai? Come mai questa scelta? Mi dica. No, vabbè, a parte proprio il corso di studi che insomma mi ha deluso. Mi sembra. L'ho scelto perché ero allora, molto voglio motivata, di... però. Per favore, non sia noiosa, però. No, comunque ci teniamo a precisare che da me all'orientale tutti i professori hanno il Mac. Allora qua siamo altissimi livelli. Ma l'organizzazione come funziona? Cioè, un problema, guarda, l'organizzazione tutti quanti dicono che è peggiore, che fa veramente schifo. Invece non è assolutamente così, almeno io non mi sono trovata male sotto questo aspetto. Voglio un attimo sottolineare una cosa, fatto nel Mac. Anche il nostro DJ completamente rincoglionito. Sì, infatti. DJ, tu c'hai il Mac? Viva la mela! Vedi? Quindi non è che sia voi il Mac vuol dire essere Dio. No, no. Dalla regia, certo. Dalla regia mi chiedono di chiederti del professor. No, quello non è un cognome. Fatiovic. Quello è un cognome. Fatovic. Cioè, tu c'hai un professore che si chiama Fatovic. Fatovic. Mi rubano la targhetta fuori allo studio certo. Ogni giorno. Ma ruberei pure io. Scusi, Fatovic. Professor. Se per questo nel mio corso di laurea ad una professoressa di linguistica generale che non dava l'esame mai a nessuno praticamente. Sì, per caso Emma Milano. Sì, nome e cognome magari io li avrei evitati. Però l'esame già l'ho fatto con lei, quindi ci sono problemi. Io non lo devo fare più. Uno dei quesiti dell'esame che era scritto prevedeva la trascrizione fonetica. Quindi sai come nel vocabolario che vedi. Sono un giurista, non so di cosa. La parola scritta foneticamente. Sì, ok, sì, l'ho fatto in inglese. Ok, sì. Uno degli esercizi appunto è trascrivere foneticamente. Anche l'italiano si fa. Le hanno trascritto una volta fuori allo studio con un cartello: Emma Milano, lei è una puttana. Foneticamente. Applausi, quindi applausi è stato un bel momento. Ecco, questo è un altro motivo motivo per cui io me ne sono scappata dalla Federico II. Ma io fuggirei anche dall'orientale. Con... io fuggirei anche dall'orientale, che uno si chiama Fattovic, Fattorivic. Che cosa insegna? Che cosa insegna? Archeologia e istituzioni etiopiche. Ah, mamma mia! Ho seguito stamattina. Che argomentone! Bello, bello. Lo studieranno in 4-5 persone in tutta Italia. Cioè, il corso è molto bello. Lui è il socio di Babbo Natale. Cioè, è etiope, però. È etiope, quindi meno. No, nemmeno. È col marasma infantile. Ma è italiano, non è italiano? È del nord. Del nord. Credo sia. Ma del nord, tipo Russia. Tundra. Ma infatti parla e ti fa morire dalle. Ma del nord, Polonia. No, italiano, Italia, questo sì, cognome sì. Lo dirò solo un'altra volta, poi chiudiamo. Fattovic. No, perché? Ma sì, che cognome è? Comunque, quanta gente c'è a questo corso di, ripeti? Stamattina eravamo in 4 di... Che grande. Ed eravamo tanti. Senti meglio 4 persone che sanno scavare in Etiopia, sì, che 200.000 avvocati ogni fottuto anno. Questo sono... è anche ragione. Perché poi non tutti sono bravi come me, diciamolo. Però, se non si è capito, sono uno molto modesto. Lasciamolo dire, perché non voglio comparare. Riccardo Modestia Cremona. Ecco. E comunque l'ultima cosa, poi me ne vado. Questo professore... Ma anche prima, se vuoi. Ma intanto io me ne vado da sola. Senza no, questa essere la, sì, la classica donna. Ma io me ne vado prima di te. Allora, comunque nulla, ci dovremmo dire che questo professore è proprio la rappresentazione della mia università. Perché com'è? Perché? Fattovic. Non in quel senso. No, perché insomma è sempre stato un archeologo e dopo insegnante appassionato alla sua materia, alla sua ricerca, eccetera. Però ultimamente ha detto: ragazzi, tanto voi uscirete da qua, non farete nulla. Ah, bravo. Uno che spinge gli alunni, sai come... cogli l'attimo fuggente, quello fa come faceva capitano mio capitano, proprio il classico professore, no, che insomma, ti spinge. È quel professore che dopo 40 anni che insegna la stessa cosa, no, a lui farebbe anche piacere, però dice: io vi insegno queste cose, ma poi che ve ne fate? Perché giustamente posso dire una cosa, Alessio, ma un professore che si siede, no, assomiglia a Babbo Natale etiope col marasma infantile, e dice: salve, io sono il professor Fattovic, e già lì ti sei giocato metà classe. Professor Fattovic, lei è ovviamente invitato alla trasmissione, quindi sì, se mai sentisse questo podcast. Ma io comunque la stimo molto, anche perché devo fare ancora l'esame. Sono una paracula di una categoria. Che faccia, comunque lui si siede al marasmo infantile Fattovic e vede solo 4, di cui una è Eleonora Minucci con questo smalto, quindi figurati. 4, cosa può pensare alla sua materia che sia utile? Comunque è talmente, anzi, è triste. Non mi sentirà mai, è talmente comunque anziano, un po' in sallanuto, che stamattina scusa stavo, che hai detto? Stamattina stavo con gli occhi bassi prendendo appunti, a un certo punto fa: signorina, non si dorme! No, professore, sto prendendo appunti. Hai detto, allora tu pensa questo vecchio rincoglionito, col deambulatore, sai quel deambulatore che usano i vecchietti? Ah, Fattovic, col marasmo infantile. Demenza senile cavalcante. Fa una materia che naturalmente non fotte a nessuno, no, solo a 4 poveri. Non sono d'accordo. Allora, siete 4 poveri cristi all'orientale. Ma gli unici con le palle a fare queste cose qua. Vabbè, questo sono d'accordo. Sì, quante pagine è l'esame? No, è senza libri di testo. Per ora. No, perché? No. Tu come fai a essere l'archeologia? Qua ridono tutti. Allora, il vero esame universitario non è quella che tu ti studi in 8 paginette, allora, sui libri, allora, e poi allora, a fare l'esame. Fatemi fare da pacire. Non sono d'accordo con nessuna delle due posizioni. Riccardo, come al solito, rompe le scatole su delle cose su cui non può dire assolutamente nulla. Quindi evitiamo, sì, però, di trattare, però, gli altri. E tu, Eleonora, evita di dire che il vero esame non è quello. Perché cerchiamo una via di mezzo. Cioè, allora, nel senso che studiamo sulle slide, sulle ognuno, immagini, ognuno studia quello che vuole. Su vari articoli. Ma io rispetto la sua facoltà. Ognuno. Allora, tengo a precisare, il tuo indirizzo lo rispetto appieno, ripetilo. Il mio archeologici orientali. Perfetto, lo rispetto appieno, molto particolare, molto specifico. D'altro pezzo, chi sceglie la specificità, perché così resalti in mezzo a questa maglia che non è come gli avvocati, però comunque ce ne saranno di archeologi orientali in giro per il mondo. Però fatelo dire. Allora, il professore si chiama Fattovic ed è rincoglionito, demenza senile, Babbo Natale, marasma infantile, vecchio, senza libro. Ma che corso è? No, 4 di loro. È impossibile. 4 di loro, Alessio. Vabbè, dai. Io 4 nella mia università li trovo al cesso. Vabbè, sì, è chiaro. Vabbè, ma questo è il massimo 4. Io ho appena finito di seguire un altro corso con un professore che è l'esatto opposto. Cioè, vabbè, a parte avere 30 anni, insomma, ci ha un giovane pederasta. Quindi, cioè, quindi, insomma. Eravamo in due. Non si possono fare in dei due. Discorsi in generale. Ma non si possono fare. L'ho fatta da sola. Sì, ho capito, ma ho seguito pure io. Ma che cosa sono i carabinieri in due? Allora, ti spiego. È chiaro che ci siano dei corsi, non come a giurisprudenza, in altre facoltà in cui la gente non segue tantissimo. Allora posso chiedere una cosa a lei? Ho saputo che l'orientale, la facoltà delle commesse, l'indirizzo per le Vabbè, commesse. Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, è un'orientale normale. Cioè, faglielo dire, ha aperto l'orientale. Sì. Qualcosa ha fatto l'orientale riguardo alle commesse? L'orientale nulla, ha dato opportunità di lavoro ai futuri laureati per andare, insomma, a lavorare nelle grandi aziende di lusso e come... Come, scusami? Adesso il termine inglese non ricordo, comunque commesso, la cioè, traduzione vabbè, è commesso. Però effettivamente stai creando dei nuovi posti di lavoro. Come commesso? Dai. Io sono una laurea. Tanto tutto il rispetto per dai. I commessi, grandi lavoratori, alcuni sono antipaticissimi, io li ucciderei a vrangate. No, certo, quando entrano... togliere a loro, però insomma, cioè, non ci facciamo... Allora, abbiamo i corsi con quattro persone. Ragazzi, ci stiamo impantanando. Abbiamo i corsi con quattro persone, due persone. Allora, vabbè, si vada a sedere. Se il rettore dell'Orientale vuole venire qui a parlare, a difendersi, venga la prossima volta. Tantino. Noi chiudiamo, ringraziamo Eleonora. Grazie Eleonora. Grazie, salutaci Fatovic quando lo vedi la prossima E anche volta. I tuoi quattro colleghi, d'accordo. Mi raccomando. Non ti dimenticare. Anche 12. No, anche da 12. Me ci sono dei corsi che sono 12 persone. Non come. Allora, Riccardo, alla tua università siete in 300 a seguire un corso e magari due stanno limonando in fondo all'aula. Esatto. Ok. Accade. Quindi, per non dirti le aule, o fanno il fantacalcio. Tra l'altro, non dirti l'aula in videoconferenza. Ok, nell'aula in videoconferenza praticamente le orge proprio probabilmente. Vabbè, tagliamo. Ciao, grazie. Ciao Eleonora, grazie. Grazie Eleonora, arrivederci. Si può sedere. Certo che Fatovic, però, mamma mia. Quattro. Fatovic. Allora, prossima quattro notizia. Quattro con Fatovic. La prossima notizia è la tua, vai. Fatovic, la vodka che volevi. Dai. Allora, notizia interessantissima. Napoli. Siamo a Napoli. Allora, praticamente che succede? Record del vecchio continente, nonna a 29 anni. Mamma mia. Quando uno è saggio, Cioè, allora, che la nostra quasi coetanea, che diciamo. Sì, praticamente sì, un po' più anziana volta, però che succede? Succede che questa bellissima donna, vabbè, bellissima, una donna piacente, di 29 anni. Che carità. Succede? Si chiama Giulia Elia, salutiamola. Sì. Auguri. Ciao Giulia, anzi, auguri. Puoi venire in trasmissione, tu e i nipotini. Prego. Allora, che succede? Lei è stata mamma a 15 anni. Eleonora era venuta a sbirciare se era bella o no. Eleonora, era una frase di rito. Potevi anche... Non è bella. Non ringraziamo per la sera del mattino. Grazie del mattino, questa notizia è bellissima. Allora, Giulia Elia, che succede? È diventata mamma a 15 anni. Che si sa che anche se c'è l'amore, diciamo che non è il massimo. Cioè, non è, non dovrebbe essere così. Perché comunque c'è bisogno di un'età più matura per accudire un bambino. E che succede? La figlia, visto che ha visto il bellissimo esempio della madre... perché la madre ha dato questo esempio bellissimo. Che è successo? Ha anticipato la madre e a 14 anni ha fatto un altro bambino. Un record dopo un altro record. Questa insomma. Famiglia è proprio le Guinness dei Pati con Paola Perego. Dopo parleremo anche di quello. E che succede? Succede che dall'altro ho saputo che forse la nipotina appena nata forse vorrà battere il record. Secondo te, ancora? Speriamo 13? Di no. Perché poi da 14, 13, poi c'è 12, 11. Poi diventa quasi impossibile. Allora, io vorrei dire innanzitutto che stiamo parlando veramente di 14 e 15 anni, sono proprio bambine. Tra l'altro il padre ne ha 18, potrebbe essere denunciato. Lasciamo perdere, siamo usciti a tarare a luce e vino solo perché è un record Scusa, mondiale. Leggo uno dei commenti scritti da... Sì. Allora, i commenti... Il mattino dà la possibilità di scrivere commenti sotto. E questo è un bruttissimo errore, esatto. Grave errore. Anche perché c'è chi dice medioevo, che si firma così, medioevo. Ma qualcuno ha mai detto che esistono sistemi anticoncezionali? Il migliore è il secondo, che dice: io da napoletano non me ne vanderei. Vanderei, bravo. Non me ne vanderei. Tra l'altro la T e la D sono distantissime sulla sì. tastiera. Ecco, diciamo questa cosa. Allora, cominciamo a dire che in effetti i sistemi anticoncezionali sarebbero da utilizzare in tutti i sensi, soprattutto a 14 anni. Cioè, non puoi avere un bimbo a 14 anni, vero? Cioè, no, non si può. C'è l'amore, non c'entra un cazzo. Cioè, bambine di 14 anni che mi sono ascoltando. Quando avrà 44 anni, cioè fra 15 anni, batterà il record come bisnonna. Questa è proprio pronta per battere tutti i record. consigliandoti di questo passo. Allora, ragazzini di 14 anni che mi state ascoltando e sentite la mia voce sudente e siete lì nelle vostre camerette, voglio ricordare che il sesso va fatto sicuro, perché avere un bambino non è il momento giusto per averlo. Quindi vivete la vostra gioventù, non rovinate tutto in questo modo. Arrivederci. Il freddo addosso. Vabbè, andiamo avanti. Ah, che notizia c'è? Ah, questa è bella, questa è bella. Vai, vai, dimmela. Ah, ma tocca a me. Sì, il mio acerrimo nemico, Facebook. Allora, Facebook. Questa è una notizia che io ho sentito in quel bellissimo, professionalissimo, sì, che dire più, issimo, sì, telegiornalissimo di Studio Aperto. Ah, come no. A me ieri piace al Studio Aperto c'era un panda che si scaccolava, l'ho visto. A me piace guardare Studio Aperto. Certo, perché è un verità. Perché io ho qualche ambizione, diciamo, nella vita. Mi piacerebbe diventare giornalista tra molto tempo. Sì. E quindi guardando Studio Aperto so esattamente cosa non devo fare. Bravissimo. Oppure cosa devo fare per riuscire ad arrivare a diventare giornalista e poi cambiare totalmente direzione per essere un bravo giornalista. Mi sembra, sono d'accordo. Il titolo questa volta è La Repubblica. Il titolo è chiaramente più corposo, diciamo, essendo, sì, un giornale un po' più senza togliere niente al Mattino, che è comunque nostro fedele amico. Leggo ogni mattina il Mattino, scusami le parole, però è vero. Notizia: fa amicizia con un ragazzo su Facebook, aggredita per la gelosia da 4 coetanei. Brave, brave. Come no? Strattonata e picchiata dalle compagne per il contatto al computer con il fidanzato di una di loro, una ragazza di 17 anni è stata picchiata e rapinata per strada da 4 coetanei. Cioè, le hanno rubato anche il cellulare. Poveretta. A San Giuliano Milanese, ingelosita dal fatto che aveva contattato un loro amico su Facebook. Ci stava, ci stava. Che stronze. Ma poverina lei. Stronze loro e poverina lei. Lei che ha fatto? Scusa, mi ha dato un'amicizia. Allora, posso dire una cosa? Ormai mi arrivano richieste un'amicizia da gente sconosciuta con nomi incredibili. Tra parentesi, anche Nonna Minucci mi ha dato semplicemente l'amicizia di un'azienda, una cosa del genere. Sì. È come una sua piccola produzione, magagne. Perché magagne. Lei è un'imprenditoria, diciamo così, giovanile. Perché sta studiando col dottor Fatovic. Fatovic. Ah, cosa detto, tu sei sicura che si chiami Fatovic e non Fatovic? Fatovic. Abbiamo anche la conferma, l'accento al posto giusto. Che, cioè, ti manda amicizia chiunque. Tu accetti anche detto così, giusto per, no? Per andare a spulciare, non c'è un cazzo da fare. Non è che Facebook sia questa grande cretinata, fondamentalmente. Sì. E lei avrà accettato, chi se ne frega? Cioè, un ragazzo, lo conosco di vista. Ah, stava alla mia scuola. Ma che ne sa che poi quattro stronze, se vogliono venire, sono benvenute. Sì, noi le invitiamo, ovviamente. Come queste tutti quattro stronze, di cui una gelosa. A 17 anni, gelosa, falla finita, l'hanno sacagnata di botte. Sacagnata si può dire? Sì, sacagnata, certo. Milanese. Hai mai visto verbo sacagnato. Giovanni e Giacomo? Sacagnato, certo. Sacagnato, poi non lo so declinare, ma è sacagnata di botte. Sono ragazzi, comunque, dai, sono ragazzi. No, non sono ragazzi, che non è la giustificazione. Non sono giustificazioni. Andiamo avanti, la notizia questa è più divertente. Notizie flash. New York, la grande mela. Oh, New York. La pizza a 99 centesimi. Ah. Tra l'altro, allora, caratteristica che succede? Che a New York finalmente, per combattere l'hamburger, che succede? Hanno cominciato a vendere anche la pizza. La pizza, come dicono là in America, la pizza. A 99 centesimi per combattere questo hamburger. Di qualità. A parte, allora fammi dire un paio di cose. Allora, innanzitutto, diciamo che gli americani hanno apprezzato. Perché? Perché fra 99 centesimi di pizza, che comunque fa schifo, perché farà schifo sicuramente, tipo una mattonella sarà. Probabile. Però 99 di hamburger. Tu sai cosa ci può essere un hamburger di 99 centesimi? Anche i denti di un cristiano morto. Bravo. Ovviamente. Di Jimmy Hoffa, sai Jimmy Hoffa, il vecchio. Jimmy Hoffa era il primo pentito della mafia che si è ammazzato. Non, si è non il giocatore del Napoli, il giocatore Mo. Non gioca Offer, mai Hoffer. Ma falla finita. Ma noi lo pronunciamo Hoffa perché siamo gente linguistica. Quindi vedo cosa ci può essere in quell'hamburger. Che ne so, tipo zoccoli, naso di mucca, corne. I zoccoli di Jimmy Hoffa. No, che c'è? I zoccoli di Jimmy. Cioè deve essere una cosa schifosa. Le corna di Jimmy e poi mi avvito. Poi immagina sta pizza. È buona la pizza. La pizza è eccezionale. Very good pizza. Oh, yeah. Mario, it's you. Cose del genere. Luigi, cose del genere. Pizza. Cose che non fanno bene alla nostra nazione. Cominciamo a dire che la pizza americana è una mattonella con sopra un po' di succo di pomodoro e formaggio che non è mozzarella. Non sono mai stato in America, non posso. Vabbè, comunque già se vai fuori Napoli non è pizza. Cioè, da Roma in poi, da Roma in poi non è pizza. Già arrivati a Roma, già è finita. A Roma è un altro tipo di pizza. Almeno non vogliono imitare la nostra. È un altro tipo di pizza. Però in giro per l'Italia fanno delle pizze improponibili. Sì, come quella volta che hanno trovato. Parlando di. Sì, di hamburger? Di che? Hamburger? Sì, ah, di hamburger? Hamburger? No, parlando di grandi catene in cui si mangia come McDonald's. Burger King o cose del Burger genere. Burger King, non la so. Infatti. Una volta da McDonald's hanno trovato nelle scatole di pollo fritto. Buono, McNuggets. Esatto, McNuggets. La testa di un pollo fritto. Ah, questo è buono, come no? È eccezionale. Puoi avere un McNuggets e ti trovi la testa di un pollo. Di un pollo, è giusto. E loro che hanno fatto hanno denunciato, hanno fatto un sacco di soldi. Ma sicuramente. Io l'avrei mangiato lo stesso. Ah, perché tu sei un rinomato porco. No. Sempre dei mangi limiti. Poche volte a McDonald's. Ma quanto è bello, guarda, non l'abbiamo mai detto. Quanto è bella la musica che abbiamo in sottofondo. È vero. Sono passate 11 minuti. Io ho pure detto adesso mi baci. No. L'ho detto troppo. Non ti bacerei mai. Ma quanto è bella la musica che abbiamo in sottofondo. No, merito mio e delle mie grandi capacità. Allora, io ho due notizie. Sì. Là ce n'è scritta solo una, ma c'è anche un'altra. Sì. Allora, la prima è bellissima. Allora, che succede? Succede che un ghanese, immigrato in Italia, che ha avuto il permesso di soggiorno, è andato all'anagrafe col suo figlio di 5 anni. La signorina ha fatto: come vuole chiamarlo? Silvio Berlusconi. Nome. Cioè, il nome di questo ragazzino adesso è Silvio Berlusconi. No, il suo vero nome è Silvio Berlusconi Boaene. Sì, ma il nome, cioè come io mi chiamo Alessio, lui si chiama Silvio Berlusconi. Piacere, Alessio. Piacere, Silvio Berlusconi Boaene. Allora, voi siete dei pazzi. Voi siete dei pazzi. Allora, voi siete una famiglia comunque di immigrati. Ok, siete ghanesi, venite dall'Africa. Tanti nomi belli. Mamma Africa. Fu qua. Cioè, è un posto, è un posto meraviglioso dove avete ancora le giraffe. Perché venite qui? Per dire, perché venite qui e date a vostro figlio il nome di una delle. Mi viene da piangere. Cioè, allora, innanzitutto, cioè siete pazzi. La novità è che in Italia non abbiamo più un solo Silvio Berlusconi, ma ce ne abbiamo due. Sì. Perché sì. Ci serviva. Sì, tu immagina questo bambino di 5 anni. Io sto da un lato e piango. Cioè, il bambino di 5 anni si chiama Silvio Berlusconi Boaene. L'immigrato del Ghana, quando ha avuto il permesso di soggiorno per omaggiare il nostro cavaliere, ha detto praticamente: adesso lo chiamo Silvio Berlusconi. È giusto. Oltre a rovinare la fila della vita a questo bambino, come se non bastasse, però c'è uno scoop. Sì. La maestra del bambino è la donna più felice del mondo. Perché? Perché è l'unica che potrà intervistare e interrogare Silvio Berlusconi. È giusto, questa è bellissima. Questa è bellissima, te lo faccio io l'applauso. Grazie. È venuto in mente in macchina mentre venivo qui. Eccezionale. No, a me dispiace perché Berlusconi è un. Vabbè, si dice sia più alto il bambino di Berlusconi. Non parliamo di politica, parliamo di non lo so, di immagine. Di immagine pubblica. Sì. No, a me fa non mangiare. No, mangio un biscotto, cioè, nella pausa. Ci hanno offerto un biscotto e lui l'ha preso alla radio. Allora. Mi dispiace perché poi Berlusconi ha a che fare con persone tipo Calderoli. Madonna. Cioè Calderoli li vorrebbe bruciare tutti. Man on fire. Cioè voi vi siete andati a dimischiare. Vabbè, problemi vostri comunque. Il 24 io con questa famiglia ghanese ho chiuso. No, basta. Silvio Berlusconi non è un nome. Comunque io mio figlio lo chiamerò Ministro Calderoli. Ho deciso così. Ministro Calderoli Cremona. Secondo me è carino. Secondo me fa anche bella figura. E poi lo picchio per picchiare il ministro Calderoni. Non posso parlare, sto mangiando un biscotto. Io ho detto, cioè, alla radio c'è il biscotto. Mi metti un'altra notizia del Wild Gesti? Allora, che è successo? Noi l'altra volta abbiamo compianto il mitico, l'eroe dei giorni nostri, il mitico Ping Ping. L'uomo più basso del mondo, 76 centimetri, lo abbiamo amato tutti, come no, mentre si aggrappava come un chihuahua, isterico e infogliato, alla gamba di Barbara D'Urso. Allora, che è successo? E Ping Ping è morto. E mi dispiace dirlo così, non me ne voglio la famiglia. Che è successo? Il Guinness dei primati, a chi è andato? A quest'essere che adesso stiamo vedendo qui davanti. Allora, si chiama, scusami, non lo leggo il nome. Oddio, questo è il nome più difficile da leggere in assoluto. Allora, 19enne nepalese, si chiama Kajendra Tapamagar. già c'ha 9 di media, potrebbe avere il Guinness dei privati per il nome più brutto del mondo. Che succede? Ha 19 anni ed è alto 56 centimetri. Allora, 50... Scusami, ti dispiacerebbe parlare pure tu? No, a me dispiace. Allora, ecco qua, adesso tieni in mano un foglio di giornale. È più alto il foglio di giornale che lui. Cioè, 56 centimetri. Se Ping Ping era come una valigia Ryanair, questo è come il beauty case di Leonora Minucci. La buon'anima di Ping Ping. Ah, pensavo di Leonora Minucci, sì. E guarda, guardate, piccolo, è impressionante. Picchia uno in faccia ed è grande quanto la sua faccia. E ha 19 anni. Io, noi vogliamo salutarlo. Non vedo l'ora di vederlo in quel bellissimo show che sta per andare in onda. Ma di... sicuramente, lì stanno così a pezzi che se non chiamano il nuovo uomo più piccolo del pianeta, chi cazzo chiama? Chiameranno anche Fatovic per il cognome più strano del mondo. E comunque, diciamo che non vedo l'ora di vederlo attaccato alle lunghe gambe di Paola Perego, che noi invitiamo insieme a... Kajendra Tapamagar. Kajendra Tapamagar, se vuoi venire, passi sotto la porta, neanche bussi, e sei qua pronto. Kajendra, ti portiamo nello zaino. Fatovic, Kajendra. Molto bene, ci prendiamo una pausina? Sì, veniamoci a fare, sono stanco. Ok, pausina, ciao. Ciao. Allora, eccoci qua, rieccoci in onda, e abbiamo il momento del collegamento col mio mito. Ma smetti di mangiare. Sono buonissimi questi biscotti. Allora, sì, ma dopo fai la radio così. Le gocciole del Carrefour sono meglio delle gocce originali. Pubblicità. Non ci hanno pagato, però va bene così. Sono senza grassi idrogenati. Ah, che cos'è un grasso idrogenato adesso? Non ne ho la minima idea. Bravo, continua a fare lettere. Allora, comunque, se tu potresti un po' d'acqua. Smetti. Magari sì, grazie. Smetti di fare sto rumore. È fastidioso. Cioè, a chi piace. Aspettiamo l'acqua, per favore, un bicchiere d'acqua, io non vado avanti finché questo non smetti di fare. Bevi, non fai rumori mentre bevi. Ha fatto rumore. Si sente. Grazie. Che schifo. Allora, abbiamo Indire, abbiamo il collegamento Ascanio Mummolo. Oh, sa. Non vedevi l'ora, di la verità. Ma sì. Dopo Bernardo Cesaria andiamo su con lui, che è il nostro protagonista da sempre. Sì. Il nostro simbolo. Pronto, Ascanio, ci sei? Matteo, questa è bellissima, non mi permetti di riusarla. Ah, Matteo è l'amico, non lo sai già un po', come eh? Come no? No, Matteo, credimi, la riuso. Ah, pronto? Non è parlare con i coglioni. No, come al solito, sono due coglioni. Ernesto Evaristo, buongiorno. Pronto? Pronto, salve. Ernesto Evaristo, Radio 2010. Ah, che piacere, salve, buonasera. Come sta? Come va? Bene, molto bene. Lei sbaglia, non sa ancora usare i telefoni, voglio che voi lei lo sappia, perché abbiamo sentito che parlava con Matteo, l'amico di vecchia data. Dove vi siete conosciuti con Matteo? Ma chi? Matteo. Ma chi è? No, prima hai detto Matteo, questa la racconto. Matteo. Ma non è vero, ma sì, Matteo. Comunque lui sta entrando in politica e già sta imparando come si fa. È bravissimo. No, Matteo è un suo amico. Ma non è vero. Ma no, con chi parlava? Non lo dimostri, con nessuno, non stavo parlando. Ah, lei parla da solo con un Matteo ipotetico. Non stavo parlando con nessuno, c'è nessuna ipotesi di... L'abbiamo sentita! Ma voi sentite i fantasmi, no. Come quelli che vede la gente morta, non è colpa mia. Vabbè. Fatemi vedere, conosco delle brave persone, sì. Che fanno questo per mestiere. Sì, se sono amici, già ho detto, la psicologia è una stronzata, quindi non sono convinto che sì, lei però anche... secondo me nel vostro caso vi possono aiutare, a lei a far uscire la donna che è lei, a lei aiutare un po' di problemi che ha. Ah, io sono te donna, mi è stato meglio. Chissà perché. Perché siamo compagni. Perché siamo amici. Scusi? Siamo amici, ah, okay. Compagni non in senso comunista, siamo compagni, ah, sì. Siamo amici. No, sì. Posso dire che il sono... passato è passato, il comunismo, il fascismo, no, ma chi posso se ne dire può, che non è mai passato, posso non dire si che guarda siamo... mai dietro. Posso dire che siamo amici. Anche lei. Se ogni tanto, se stiamo in zone pericolose, guardarsi dietro non ci sbaglia mai. È giusto. O camminare spalle al muro. Vabbè, che anche. Siamo, Spider-Man. Sì. No, vabbè, Spider-Man cammina sui muri, io dico spalle al muro per non bam, capito? Abbiamo capito, col bam è caduto un euro a terra, bam! No, non si fa. Innanzitutto voglio sapere se posso dire che lei è un mio amico, posso dirlo? Se vuole, sì. Come se io sono amico del popolo. Ah, eccolo qua. Allora, salve, sono popolo. Salve. Amico. Io butto il grano come saggezza. Il grano come saggezza. Io questo tu ridi come non mai. Fallo sentire. Sta risata. Non trattenerla, perché in effetti c'hai ragione. E che significa che lei butta il grano come saggezza? Nel senso che io dispenso tanta di quella saggezza in mezzo al popolo. In mezzo al popolo. E la stessa cosa faccio quando butto il grano. Quindi ah. Con molta delicatezza. Lei è un seminatore di saggezza. Sì, anche. Anche, lei anche. Semina, lei semina. Io anche il mio orto, quindi sì. Sai come si dice? Chi semina, raccoglie. Chi semina, mangia. Però chi semina per raccogliere si china, è sempre quello. No, non raccolgo io. Ah, ok. Non ce la raccogliere lei, mica sono scemo. Quindi sono, lei, lei semina in piedi, così, lanciando. No, io sono seduto sopra una sedia, ho gente che mi spinge. Io butto okay. questo grano, come se fosse, come se stessi dispensando perle di saggezza. Le perle e porci. Così. Prendete terra, crescete, forza. Prendete terra, crescete, forza. Io parlo con madre natura. Ah, è sempre, colloqui. Sì, sì, sì. Come, com'è, simpatica? È bella donna. È bello avere questa voce un po' suadente. Lei oggi ha una voce molto suadente. Posso fare una domanda, signor Mumolo, che non c'entra niente con la politica, ma certo, che c'entra certo. la notizia che ritengo più importante della sezione. Certo, sì. certo, dica. Lei per che squadra tiene? Tifa. Allora, no, tiene, parlo come parlano al nord. Io... Al nord non si tifa, al nord si tiene. Sì, però Dio santo, ha fatto la domanda, mi faccio rispondere. ma qua mi interrompo, mi scusi, Vabbè, io ho una squadra mia personale. Ah, ecco, sì. Come si chiama? La mia? No. Minter. Minter. Sì. Perché Minter? Perché noi lo mettiamo sopra al Milan e all'Inter. Ah, e ok, Inter. No, ma io parlo della Serie A. Della Serie A italiana. La Serie A io ovviamente tifo l'Inter. Ah, ecco, perciò mi Sì, Inter. Perché fondamentalmente quella squadra del Milan è gestita da persone poco raccomandabili. Ah, la concorrenza, Al di là di questo, cioè, o fai una cosa o ne fai un'altra. Non puoi stare da un posto e gestire una squadra di pallone, cioè... Lei sta per fare questo però. A meno che no, perché io quando poi dopo ovviamente dovrò entrare in questo mondo della politica a seminare perle di saggezza. Sì, non vedo l'ora. Lascerò tutta la squadra di pallone a mia moglie. Ah, Ascania. Ascania. Lei sarebbe il primo, probabilmente il primo uomo che lascia una squadra di calcio ad una donna. Sì, sì, quello fa un cazzo la mattina e la sera, dove gestisce la squadra tipo il fantacalcio. Il fantacalcio con uomini veri però. Che cosa ne pensa quindi della situazione Balotelli che potrebbe andare al Milan? Ma Balotelli al Milan, spero di no per lui, però cioè, secondo me il Milan è gestito male, un po' come l'Italia, no, vuole parlare lei, di politica. Lui vuole parlare di politica, da queste però Balotelli facesse quello che cazzo vuole, tanto un nero in più, un in meno, cioè, chi se ne frega. È italiano Balotelli, eh? È italiano. Questo è quello che dice a voi. No, è italiano. Io lo vedo, è nero. Ok. Ho capito, però è questa la ragione lei, in effetti cromaticamente non si può dire niente, è nero. Però lui gioca con la nazionale italiana. Vabbè, che c'entra? Quello è perché noi facciamo scarsi, allora ci pigliamo gli stranieri. No, vabbè, non è straniero. È di Bergamo. Cioè, è stato adottato. È di Bergamo di Ola. Ok, è adottato. Però, cioè, che c'entra? Che significa? Lei è adottato coi lupi? Viene scritto sulla carta d'identità che è un lupo? No, perché... non appartiene ad un genere. Un'altra specie. Ad un'altra specie. Vabbè, è fa parte di un'altra parte del mondo. Sì, allora, lui è nato in Italia. Se lei va a Bergamo, ci sono più persone di colore che... No, forse non è nato in Italia. Ah, non lo sappiamo. Hai visto? Hai visto? Poi dice che io dico le stronzate. Controlla un attimo, intanto io chiedo. Allora, è italiano, ha giocato con la nazionale italiana, ha vestito i colori italiani. Vabbè, anche camoranese, ha giocato con la maglia italiana. No, vabbè, italiano, però cortesia, aspetta. Poi ci dilunghiamo in discorsi troppo profondi. No, allora, per camoranesi, voi. L'oriundo, come si diceva ai tempi. Io lo chiamo il coglione. Ecco, è venuto già vecchietto e se... Teneva un passaporto italiano, gliel'abbiamo fatto avere noi il passaporto italiano proprio perché eravamo scarsi. Sì, però perché siamo dei pezzi di merda, siamo facciamo entrare cani e porci in Italia. Balotelli, cioè, che ti serve a te? La carta d'identità, prendila. Balotelli nasce a Palermo. È nato in Italia, sì. È nato in Italia. Da immigrati ghanesi. Immigrati come? Ghanesi, del Ghana. Il Ghana, conosci il Ghana? No. Come no? No. No, non conosci il Ghana. No. Il Ghana in Africa. Ali, sei del Ghana! No, Ali, non è... Ali! È il suo maggiordomo. Non fare finta che hai un infarto! Forse ce l'ha sul serio! Alzati! Dio santo! Ma come alzati? Levati quella bava dalla bocca! Ma vada a controllare! Vai a pulire! Ma vada a controllare, magari è morto! Ma chi se ne fu? Ascania, vedi che tiene questo pirla! Eccola! Cortesia! È morto Ali, che non sappiamo se è ghanese oppure no. Allora, smetti di ridere così. Allora, Balotelli nasce a Palermo, sì. Da immigrati. Ok, ma che me ne importa a me, Dio santo? Avete chiamato per parlare di calcio? Chiamate che cazzo ne so io, come si chiama? Zazzarone. Allora, già con uno con uno Zazzaro, come fai a fare calcio? Allora... vestito una merda, ha un busto di mezzo centimetro e parla di calcio. Ma di chi sta parlando? Di Zazzarone. È un giornalista. Allora, c'è una cosa. Io prima ho sentito una cosa. No. Perché? Come? No, mi ha detto merda. Non è vero. Ma non vuol dire che va bene, non è vero. Io non l'ho sentito niente. Allora, c'è una cosa. Io non l'ho sentito. Allora, lei all'inizio della trasmissione ha detto, questa la racconto, Matteo. Che cosa? Ma che cosa sta dicendo? Lei è pazzo, lei ha le visioni. A parte che forse ascolto, sento allora, le voci. È un mio amico, se segni questo numero, 331. Veramente, non è si una possono, brava persona. Non si possono dire i numeri alla radio. Vabbè, è una brava persona, fa questo per mestiere. La può aiutare a superare tanti traumi infantili. Ma lei c'è andato? Io no, però l'ha toccato. Eh? Qualcuno della sua famiglia l'ha toccato quando era piccolo? No, assolutamente. Ho vissuto l'infanzia. Ma che domande fa la radio? Per scusi, anni? Perché se ha dei problemi. Ma che domande fa? Ma no, dai, per cortesia, che domande fa? Allora, allora è pronto per questa politica? Sì, sempre. Sempre? Sì, sì, sempre vigile sulla politica. Sempre vigile sulla politica. Sì, sì. E allora, mi dica come sta andando, bene? Si procede. Con Bernardo tutto a posto? Bernardo è simpaticissimo. Sì, Bernardo, bravo, simpatico. Persona, bravo. Adesso vuol dire una parola, che diamine. Io non ce la faccio a parlare con quest'uomo. Gli dica qualcosa lei allora, non mi diverto così. Vabbè, io sono in tomi molto calmi perché sono in fase politica. Ascanio quindi... Camomilla Mummolo lo chiamavano, vero? Sì, sì, sì. Sì. Allora facciamo un fatto. Noi di politica oggi non vogliamo parlare. Lei è d'accordo? Sì, va bene. L'avete titubante. Ti ha chiamato a fare. No, allora abbiamo sentito un'altra cosa. La sentiamo. Ma non è vero. Abbiamo delle cuffie, costano un sacco di soldi. La sentiamo. Come buttare i soldi? No, questo non è un problema mio. Allora, noi non è che possiamo chiamarla tutti i giorni e parlare di politica. Vabbè, di cosa volete parlare? Del tempo? Abbiamo... Ah, che bel tempo. Ho discorsi d'ascensore. Salve signora. Ha visto? Ah, non ci sono più mezzi a stagione. Oh, cavolo, crimine, è vero. Cioè, che cosa vogliamo parlare? No. Abbiamo già fatto qualche domanda, abbiamo chiesto che come so, sta. Avete visto le mele? Non sono più quelle di una volta. Le mele? Sì, le mele sì. Non sono tale quali le mele. Non è vero, sono più piccole. Allora, una domanda. Che ne pensa del Ganese che ha chiamato il figlio Silvio Berlusconi? Lei vorrà che un Ganese chiama suo figlio Ascanio Mummolo? Ma già boh, esiste. No, che già esiste. Cioè, Ali, già, non ha mai tiene 12 anni, il figlio di Ali. E come l'ha chiamato? Il figlio di Ali. Ascanio Mummolo Sbliff. Sbliff, perché Sbliff? È il cognome da lì. No, era un cantante che gli piaceva a lui lì a Ghana, quindi... Ma la gente a Ghana. Anche la gente dell'ufficio anagrafe sono pazzi. Sbliff. Ascanio Mummolo Sbliff. Sì, sì. Allora, noi abbiamo parlato, non possiamo sempre parlare di politica perché la prossima volta le prometto che possa morire Alessio. Ah, grazie. Allora speriamo che non parliamo di politica. Le prometto che parleremo di politica. Lei è molto simpatica. Noi però i tempi sono corti, poi non possiamo parlare troppo tempo, la gente si annoia. E abbiamo fatto due domande. Non è solo il tempo corto, almeno saputo, voci di corridoio. Lei sta insinuando qualcosa? No, non insinuo niente. No, perché sai, io sono molto suscettibile per quanto riguarda l'altezza, tu non ridere. Ma io non parlavo neanche dell'altezza. E di che cosa stavo parlando? E io non sono suscettibile su questo, forse ce l'ho con te. No, ma io non ho nessun problema di... Io sto bene, sai che si dice? Di cosa? Sai che lei... si dice degli uomini bassi? E quindi io sto bene, forse tu. A che cosa si sta riferendo? Non lo so, mi dica lei. No, che vuole? Non lo so, me lo dica io. No. Lei sta parlando del pube? Di chi? Cioè, in generale, di del pube. Del bambino? No, non bambino. Pube. Pube, zona pelvica. Pene. Ah, il pisello. Ah, è giusto. Buttiamoci sul vegetale, pisello. Lei sta parlando di... Lei sta parlando del pisello. No, lei non è vero, lei ha detto corto. Io ho detto solo corto. Poi se lei dice che ha il pisello corto, non è colpa mia. Vabbè, basta. Ciak. Si gira. No, si gira. Era per chiudere. Allora, salve, sono Scalmumolo, nasco come attore. Ma come nasce come attore? Va bene. Allora, mi piace. Ho anche una bella voce calda. No. Potrei anche, non lo so, con questa mia voce che mi piace tantissimo, perché a me doppiare piace... i tombini nei film della Pixar che fanno pa. Bravo, perfetto. No, infatti, doppiare film porno. No, signor. Siamo una radio seria. Sei bella. Ma quale signor film porno è questo? Oppure non lo so, un film piratesco. Piratesco? Sì. Alla rimbagna. Alla rimbagno. Alla rimbagna, alla rimbagna. Che è la rimbagna? E cagare. Vabbè, basta, chiudiamo da qui. Io non ce la faccio più. La posta altra di politica. Il suo motto. Solo una cosa, poi chiudo parentesi. Dica. C'è stata una causa che adesso stiamo ancora vedendo. Che sì. Mi è stato rubato uno dei miei motti vecchi, che però era dedicato al Mummolo. Cioè? Ora, per una questione di copyright, non posso farla sentire, perfetto. Però posso cantare il motivetto, così voi capite. Siamo pronti. Ma no! Ma questo è l'inno di Forza Italia. Eh sì, non l'avete detto voi, non l'ho detto io. Però non era questo, cioè nel senso che il mio era molto più vecchio. E Forza Mummolo, come faceva? No, no, vieni nel mummolo, è comodo e felice. Sì, vieni nel mummolo, il cioccolatino è sul letto. Allora, sì, una cosa. Complimenti, complimenti per la metrica eccezionale. Eccezionale. È molto più bella la canzone. Ma che ha vinto Sanremo. Il mummolo è felice. È un palazzo. Non chiederti, non chiederti. Il mummolo io. Ah, lui è felice. Il mummolo. Il mummolo, capito? Il mummolo per eccellenza. È lei. Il mummolone. Il tronista del mondo. Ma diciamo il tronista così. Del mondo. Anziché Maria De Filippi, il tronista proprio del mondo. Vabbè, basta. Basta. Basta, veramente. La ringrazio. Cosa? No, l'ha detto qualcosa. Ha detto niente. Ma io non lo capisco. Certo, oggi non riesco a capire. Vabbè, allora. Senta, ragazzi. Ma... Mi fa che giochino. Il vecchio gioco, il vecchio gioco. Lei è proprio una sagoma. Una canaglia. Allora, una simpatica canaglia. Simpatica canaglia. Allora, facciamo una cosa. Lei chiuda con il suo bellissimo motto. Chiuda col suo bellissimo motto, per cortesia, perché è giusto che lei bacia il motto. Lo sa che le diamo spazio per questa cosa politica. Prego, qual è il suo motto? Allora, gente per noi, gente per voi, servono tutti. Un bacione da cane mummolo. C'era un rumore di sottofondo, non l'ho sentito. Può ripetere, perché non ho sentito bene. Ripete il motto. Gente per noi, gente per voi, servono tu. Vada, vada. I. Ancora. Lei è un cretino, Dio santo, è lei che fa questi rumori. Ma sta no, l'interferenza. Che brutta persona, mamma mia. Ma le penso della sera. Vabbè, adesso io me ne vado, arrivederci, viva il Papa, viva Corona, viva tutti quelli che mi vogliono bene, anche le formiche rosse, ricordiamo che stanno in estinzione. Formiche rosse. Se solo potesse votare voi formiche rosse. Voterebbero Mummo. È ovvio. Non ho parole. Arrivederci. Grazie, arrivederci, ci saluti Matteo. A chi è Matteo? Al passo. Ciao Matteo. È sempre uno spettacolo parlare con quest'uomo. Senti, sempre un piacere. Che dici? Saluti? Sì, è il momento dei saluti. No, dico tu saluti. Ah, sì, salve. Buonasera, buongiorno, dipende. Perfetto. Come diciamo? Io, no, tu no, saluti? No, era giusto per sapere. Ma che domande mi fai? No, la salute a casa. Ma siamo posso? Serio? Ah, perfetto, dai. A casa tutto bene? No, non c'è male. Mamma? Bene, bene. Papà? Sì, e i nonni come stanno? I nonni tutti e quattro vivi ancora. Ah, complimenti, mi dai la mano. Grazie. Ah, mi piace, mi saluti, Sì, sì. Stasera torneo di burraco a 4, quindi. Stasera? Torneo di burraco non a 4. Non so giocare a burraco. No, so i tuoi nonni. Bene. I miei nonni non lo so, non è che si frequentano tra di loro. Così. Ah, non dici? No. Ciao, maison. Saluti, dai. Saluti. Matreson. Saluti. Saluti. Saluti, per favore, regia, saluti. Eccolo qua. Oh, yes. Smettilo questo, yes, è una cosa terribile. Allora, chi salutiamo? Innanzitutto devo salutare la sorella di Eleonora Minucci, che io ho visto una foto su Facebook. È uguale. Liliana Minucci, sei uguale. Liliana Minucci, ma tu questa radio la vuoi fare? Ma perché non vieni con noi a fare la radio invece che tua sorella, che non è buona, non fa niente, non sa fare niente? Soprattutto, se tu non metti smalti di colori inguardabili, sei la benvenuta al posto della Minucci, che parla così. Quindi la prossima volta invitiamo Liliana Minucci. Tutti insieme, Liliana Minucci, insieme. Fatto, picciola da Dario, tutti qua, faccio una grande ammucchiata. Tutti insieme. Allora, evviva. Poi salutiamo anche Tiziana, che ci ha mandato un'altra mail. Ma Tiziana è proprio la nostra fan numero uno. Sì, dobbiamo organizzare una puntata con loro. Sì, Tiziana, io ti amo. Ti amo, Tiziana. Ma non conosci il ragazzo tu? Sì, conosco. Ti amo, Carlo. Okay. Ho risolto. Vi amiamo, ragazzi. Ho risolto così. Vi amiamo troppo. Allora, dove ci possono trovare? Leggi, www.radio2010.com. Oh yeah, perché hai detto così? Perché Radio 2010 è in. Radio 2010 è la moda dell'anno. Va bene, allora. Poi voglio vedere l'anno prossimo come facciamo col nome. Io proporrei Radio 2010.1. È una cacata pazzesca. Nel 2012 diventa punto 2. È una cacata pazzesca. Comunque, perché? L'anno prossimo vedremo. C'è tempo. Salutiamo da Riccardo Chiamone e Alessio Azzullo. Ciao. Ciao. Dieci.